Kirti or do. Godo. Godo. Godo. Godo perché esisto. Godo perché sono cosciente di esistere. Godo perché la mia vita scorre nel piacere, nella felicità. Godo del mondo materiale e spirituale perché ambedue non sono ciarlatani. Godo perché non sono un ET extraterrestre. Godo perché vivo da ET elloterrestre. Godo quando il mio sguardo, sempre così insaziabile, scruta piacevolmente lo spazio infinito, trovandosi a suo agio. Godo dell'aria fresca mattutina che rivitalizza il mio essere. Godo quella della sera quale auspicio di un buon riposo. Godo della corrusca luce piacevole ai miei occhi. Godo dei colori che appagano lo sguardo. Il verde mi parla di vita, il rosso di maestà, il celeste il colore della mia anima. Godo della vita così eccitante. Godo nell'osservare la morte così riposante. Godo della fonema quale forma di vita intelligente. Godo del silenzio. Godo nello scrivere perché esprimo a parole le note della mia anima. Godo quando leggo perché è musica per il mio intelletto. Godo di essere spirituale. Godo di essere anche un corpo per godere la materialità della vita. Godo della musica che trova un eco in me e fa vibrare per simpatia il mio cuore. Godo delle montagne maestose e imponenti. Godo della pianura che non boicotta il mio sguardo. Godo del callido sguardo dei bambini. Godo dello sguardo in colore dei vecchi ormai sazi di affanni. Godo adempiere la volontà di Dio. Godo mentre pecco perché spesso è piacevole. Godo accarezzare per trasmettere la mia umanità. Godo essere accarezzato per riceverla. Godo degli incoraggiamenti quali boccate di ossigeno in un mondo inquinato di negatività. Godo essere figlio, fratello, marito, padre, nonno. Godo di essere fratello in fede, amico, consigliere. E come mi definì qualcuno terrorista di Dio. Godo dell'amore quale potenza creatrice e conservatrice. Godo quando sono odiato perché, mentre l'amore è eterno, l'odio sparirà come se non ci fosse mai stato. Godo dello scorrere del tempo. Godo dell'eternità presente in me. Godo giocare con i bambini così affamati di felicità e voglia di vivere. Godo stare con i vecchi. Perché in poco tempo posso comprendere lo spazio intermedio di queste due età. Godo del riposo che ricrea, godo delle notti insonni quando prego e ascolto. Godo stare in casa quando vi è il temporale perché mi dà sicurezza, godo stare in tenda perché mi fa apprezzare il dono di un'abitazione stabile. Godo ogni mattina l'ignoto che mi sta davanti, godo ogni sera ormai sazio di avvenimenti. Godo della parola di Dio che alimenta tutto il mio essere. Godo della parola degli uomini perché anch'io sono come uno di loro. Godo della verità così preziosa per me. Godo essere lacunoso perché mi porta a comprendere quanto sia indispensabile praticare ciò che è giusto. Godo nel testimoniare della mia fede in Gesù. Godo dell'opposizione che mi fortifica. Godo essere sedentario. Godo l'attività così benefica a tutto il mio essere. Godo del sole quando penetra nelle mie ossa dandomi la piacevole sensazione di benessere. Godo il rutilare della luna anche quando, come disse un bambino nell'osservarla, ero. Godo del piacere sessuale che mi porta a scoprire un uomo al femminile. Godo della pace dei sensi. Quale situazione nell'aldilà. Godo di un incidente stradale quando ne esco vivo e sano. Godo di riavere in seguito la macchina. Godo delle diversità caratteriali e fisiche umane così arricchenti. Godo constatare le similitudini. Godo beneficare perché appaga. Godo beneficiare perché è piacevole. Godo nell'osservare la varietà degli animali. Godo nell'identificarmi nella fantasia del creatore. Godo divisare perché mi rende simile a Dio. Godo realizzare perché non mi rende utopista. Godo gioire perché è ameno per il corpo e l'anima. Godo quando soffro perché attendo di godere del piacere di star bene. Godo acquisire ed essere allupato perché il buio dell'ignoranza svanisce. Godo dell'ignoranza perché non potrei godere nell'imparare ed essere sazio. Godo lesinare perché genera certezze effimere. Godo spendere per soddisfare necessità insoddisfabili. Godo del piacere sessuale perché non ho fretta che termini. Godo della mancanza dell'impulso sessuale perché non cerco stimolanti. Godo essere munifico perché è meglio dare che ricevere. Godo ricevere anche per il donatore. Godo della sicurezza, godo dell'incertezza che godo durante il lavoro perché è salute e realizzazione. Godo del piacere di aver compiuto un'opera. Godo nel mangiare e nell'azione di espellerlo. Godo con nessuna necessità biologica. Godo di essere nato e di vivere come uomo. Godo della presenza femminile che mi completa. Godo delle virtù di mia moglie così importanti, godo dei suoi difetti che tornano a mio vantaggio. Godo di godere e di non godere, perché l'esistenza sarebbe terribilmente monotona a senso unico. Godo della compagnia così amena, godo della solitudine così costruttiva. Godo essere laconico, godo essere... Godo l'attesa del cielo, godo rimanere sulla terra. Godo delle certezze così impagabili, godo dei dubbi per sondare novità che mi faranno godere. Godo della felicità quale salute per il corpo, godo essere abbacchiato perché è salute dello spirito. Godo dell'armonia della vita, godo dei contrasti così indispensabili per l'armonia. Godo della mia gioventù con tutta la sua vitalità, godo nel diventare vecchio perché il declinare delle mie forze è in armonia con ciò che la vita mi chiede. O meglio, sarò io a vivere in armonia con le necessità. L'esistenza è umana, sono gli uomini che la rendono disumana. Godo anche di questo, perché significa che Dio ha creato ogni cosa bella a suo tempo. Godo di essere un cristiano e vivere come tale. Godo della fede fluttuante perché come la tempesta fa con gli alberi, rendono le mie radici in Cristo sempre più stabili. Godo di essere ellero che come tutti sono unico, sono un Dio, Giovanni 10:34. Per questo godo. Dicembre 2000, ellero.